Giorni. A pochi passi da via Manzoni, sul lato opposto di via Indipendenza, c'è via del Monte, dove sorge un palazzo che non può non attirare l'attenzione per la particolarità della facciata, simile a quello di un fortilizio, e del suo robusto portale in macigno, con due colonne dai capitelli corinzi sormontate da un timpano. È Palazzo Boncompagni, che nel 1502 vide i natali di Ugo, colui che è passato alla storia con il nome di Papa Gregorio XIII. L'edificio è comunemente attribuito a Jacopo Barozzi, il Vignola, non sulla base dei documenti esistenti, ma per via della pregiata scala elicoidale, che costituiva una sorta di firma dell'architetto emiliano. Tuttavia, altre fonti attribuiscono il progetto del palazzo a Baldassarre Peruzzi. Quarto figlio del commerciante Cristoforo e di Angela Marescalchi, non si può certo dire che Ugo Boncompagni abbia avuto una vera e propria vocazione per il sacerdozio. Anzi, dopo gli studi in diritto, divenne avvocato, ebbe un figlio illegittimo e fu docente presso l'università. Poi la svolta, repentina quanto inaspettata. Quando il comune si rifiutò di alzargli lo stipendio, scelse il cammino religioso. Correva l'anno 1542 quando venne ordinato sacerdote. La sua preparazione nelle materie giuridiche gli valse in un primo tempo l'incarico presso il Supremo Tribunale della Santa Sede e poi l'incarico di legale durante la prima fase del Concilio di Trento. Il Concilio, infatti, dal 1547 al 1549, fu temporaneamente trasferito a Bologna con la scusa di un'epidemia. In realtà il Papa, all'epoca Paolo III, cercava di sottrarsi alle ingerenze dell'imperatore Carlo V. Teatro del concilio a Bologna fu lo splendido palazzo Sanuti Bevilacqua degli Ariosti, situato nell'attuale via d'Azeglio. Pur essendo stato costruito in epoca bentivolesca, il palazzo ha uno stile insolito per la Bologna rinascimentale. È privo di portico e l'uso del bugnato a spigolo smussato per la facciata ricorda il Palazzo dei Diamanti di Ferrara. Il conclave che si tenne tra il 12 e il 13 maggio 1572 elesse Ugo Boncompagni Papa. Egli salì al soglio pontificio con il nome di Gregorio XIII. Curiosamente, una delle sue prime disposizioni fu di legittimare il figlio Giacomo, che fino ad allora aveva vissuto in segreto a Padova, per non compromettere la carriera ecclesiastica del padre. Si racconta che l'arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo, una volta appreso dell'esistenza del figlio del Papa, gli abbia rivolto queste parole: «Se avessi conosciuto una circostanza così grave, non avrei, santità, contribuito alla vostra elezione». Pare che Gregorio XIII abbia così risposto: «Non ve ne preoccupate, lo Spirito Santo lo sapeva, eppure ha permesso l'elezione». Poco dopo, Giacomo venne promosso comandante delle truppe pontificie e sposò la contessa Costanza Sforza di Santa Flora. Al pari dei suoi contemporanei, anche Gregorio XIII fu molto attivo per consolidare il potere e l'influenza del papato su tutta Europa. Particolarmente significativo in questo senso il giubileo che indisse in seguito della strage di San Bartolomeo, con la celebrazione di messe e l'assoluzione di tutti i peccati per i cattolici francesi. La strage iniziò all'alba del 24 agosto 1572, il giorno di San Bartolomeo, appunto, con l'omicidio a Parigi dell'ammiraglio francese Gaspard de Coligny, per poi estendersi a tutta la Francia, in una sorta di crociata improvvisata contro i protestanti. Si protrasse per una decina di giorni, durante i quali vennero assassinati oltre 30.000 protestanti francesi, compresi donne e bambini. Si trattò di una sorta di rappresaglia in risposta alle nozze della cattolica Margherita di Valois, che diventerà celebre come Regina Margot grazie al romanzo di Alexandre Dumas, e il protestante Enrico III di Borbone. Questo matrimonio è passato alla storia come le nozze scarlatte. Gregorio XIII si adoperò subdolamente anche nel tentativo di riconvertire la protestante Inghilterra, incoraggiando in segreto i complotti per assassinare la regina Elisabetta I. Questo atteggiamento tuttavia si rivelò controproducente, creando un clima di diffidenza nei confronti di tutti i cattolici inglesi, che in patria iniziarono a essere visti come potenziali cospiratori. Ma il pontificato Gregorio XIII non fu soltanto intrighi e politica. Egli fu un papa attento allo sviluppo delle arti e della scienza. Impossibile non pensare a lui come il papa del calendario. Gregorio XIII, infatti, si decise a risolvere l'annosa questione della progressiva regressione dell'equinozio di primavera, dovuta all'imprecisione del calendario giuliano, e che aveva raggiunto ormai un livello intollerabile. Il 21 marzo del 1582, l'equinozio astronomico, ovvero il momento in cui il Sole si trova perpendicolare all'equatore terrestre, era già passato da 10 giorni. Sia chiaro che per il periodo in cui era stato concepito, il calendario giuliano era di straordinaria accuratezza. Era stato elaborato dall'astronomo greco Sosigene di Alessandria e adottato da Giulio Cesare, al quale deve il nome, nel lontano 46 a.C., in sostituzione del calendario di Romolo, e aveva una differenza di durata rispetto all'anno solare di appena 11 minuti e 14 secondi. Chiaramente, più di un millennio dopo la sua adozione, questa discrepanza si faceva sentire. Veniva perso un giorno circa ogni 128 anni. Il calendario di Romolo, tradizionalmente attribuito al fondatore di Roma, era sostanzialmente un calendario lunare che suddivideva l'anno in 304 giorni ripartiti in 10 mesi. Da qui i nomi di novembre e dicembre, ad esempio, come nono e decimo mese dell'anno, il cui primo era marzo, dedicato al dio Marte. Al termine dell'ultimo giorno di dicembre il conteggio veniva sospeso fino all'arrivo della prima luna piena, detta calende, del marzo successivo. Fu Numa Pompilio il primo a riformarlo, nel 713 a.C., portando il numero dei giorni a 377 e aggiungendo i due mesi invernali di gennaio e febbraio, a cui si sommava occasionalmente un mese intercalare per mantenere l'anno del calendario allineato con l'anno solare. Il calendario giuliano portò la durata dell'anno a 365 giorni e introdusse l'anno bisestile, necessario perché l'anno solare non è suddivisibile in un numero intero di giorni. Ma perché il nome bisestile? Il motivo è presto detto. Il giorno in più veniva aggiunto dopo il 24 febbraio, ovvero dopo il sesto giorno, sexto die in latino, prima delle calende di marzo. I romani avevano infatti l'abitudine di contare i giorni che mancavano a determinate festività. Così il giorno in più diventò bis sexto die prima delle calende. Per compiere la riforma del calendario giuliano, Gregorio XIII si avvalse di una commissione di esperti composta dagli astronomi Luigi Lilio, Giuseppe Scala e Ignazio Danti. Ricordate? Abbiamo parlato di lui in occasione della meridiana di San Petronio. Costoro si basarono sulle misurazioni di Niccolò Copernico, che era riuscito a calcolare con grande precisione la durata dell'anno solare. Il calendario gregoriano entrò in vigore il 4 ottobre 1582. Tuttavia, per recuperare i giorni persi durante la validità del calendario giuliano, si decretò che il giorno successivo sarebbe stato il 15 ottobre. L'uomo che trasportò una torre.